Io, eccoci, buongiorno a tutti, siamo di nuovo qui per un'altra nuova giornata con Elia Media da Piazza Puntoni, forse con un po' di ritardo, sì, 3 minuti, scusate, partono le trasmissioni anche oggi. Per me è una discarica di velleità. Vorrei che non fosse il fallimento della ricerca del futuro. È come sempre figlia dei propri tempi e quindi è una piscina recintata, artificiale, sterilizzata, in cui spesso bisogna pagare per entrare o conoscere il custode quantomeno. Vorrei che fosse una tela che sogna di squarciarsi. È una Salerno Reggio Calabria. Vorrei che fosse una stanza piena di notte e con dentro una lucciola che gira. Elia Media. Multimedia Channel. Radio Elia Media, tutti i giorni dal 15 ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Puntoni. Elia Media. Io, come le dico, qui ci sto volentieri. Ecco, è già del 60 che sono qui. Ho cresciuto i miei figli, io sono felice, ecco. Ma sì, ho sentito che anche adesso c'è stata una festa bellissima, domenica, sì, che hanno chiuso tutte le strade, dice che è stato bellissimo. Io non l'ho vista perché io d'estate sono via, però è bellino, ci si sta bene. Ma io le dico la verità, non ho notato proprio, anzi, forse meglio di prima. Sì, era peggio quando io avevo i bambini piccoli 40 anni fa, ma io adesso... Siamo a? San Donato. Il quartiere San Donato. San Donato. Il Pilastro. Quartiere San Donato. San Donato. Insieme a? Elisa Fontana. Roberto. Diego Segatto. Deborah Padarelli. Alessandro Cafiso. Ho abitato in Piazza Michievich, qui vicino, per i 4 anni dell'università. Poi dopo mi sono trasferita qui in Via Duse, in un monolocale. Un luogo vissuto... penso con le stesse dinamiche di tanti altri. Non credo che ci siano dinamiche molto particolari, se non proprio il fatto che... percepisci la presenza di persone che ci vivono da tanto tempo, questo sì. Qui ci sono moltissime attività di frutta e verdura gestite da persone che arrivano magari dal Nord Africa piuttosto che dall'India. E mi sembra che siano considerati in modo, per certi aspetti, con una sorta di curiosità. Vedi, no, le signore che vanno all'alimentari, appunto, bani business, che entrano, si incuriosiscono, forse non chiacchierano molto, come invece succede con un altro alimentari che invece è proprio bolognese. C'è una dimensione però di curiosità, un'accettazione, nel momento in cui qualcuno si installa qui e offre una propria professionalità, penso che ci sia appunto una sana convivenza. C'è una buona integrazione anche con gli extracomunitari. Di recente hanno inaugurato una villetta e vedo spesso nella villetta dei pakistani che giocano a carte, i vecchietti che accompagnano i nipotini, tutto sommato c'è un'area di tranquillità anche la sera. Adesso ci stiamo dirigendo verso il centro Zanarelli. Per me è stato importante, ho vissuto questa esperienza del coro, il coro multietnico Microcosmos, ecco qua il nostro castello fortezza. Il coro era composto da persone che venivano da tutto il mondo, più ovviamente molti italiani, e quando sono arrivata io era in formazione e la cosa bella era imparare, e a ogni nazionalità veniva chiesto di insegnare una canzone nella propria lingua. Alla fattoria che è un circolo arci che ospita anche una trattoria palermitana, per cui un vero gioiello. È uno dei primi insediamenti di questa zona e costituisce anche una delle prime realtà attive a livello associativo e con un'importanza sociale per questo luogo, che oggi ospita persino al piano superiore, non so, corsi di tango, ma anche messe etiopi. A volte la domenica senti proprio queste sonorità esotiche, ai limiti del gospel, però non totalmente. E quindi queste persone vestite di bianco con vestiti di cotone, sì, cappelli strani, eccetera. Quindi arricchisce quella che è già una variegata popolazione locale, diciamo, che è fatta di molti siciliani, che ne so, di prima o seconda generazione che sono venuti ad abitare qui a Bologna al Pilastro, ma anche rumeni piuttosto che bulgari, pakistani, di cui questa zona si sta arricchendo. Per me il quartiere San Donato inizia dopo il ponte. Prima del ponte siamo ancora in centro, non considero la porta. Anzi, diciamo che tra il ponte e la porta c'è la terra di nessuno. Sono sicura che prima della COP ci sono stati dei cambiamenti venendo dal centro con l'autobus, prima della COP sulla sinistra. Però è stata rifatta da poco ed è una villa molto particolare, perché diciamo, in questa villa ci sono diverse cose. Ha avuto una sorta di ristrutturazione e in realtà praticamente è stato tolto un sacco di verde, è stato messa della ghiaia facendola passare per del verde, quindi c'è stata tutta una polemica, c'è stato anche un comitato, però come ti dicevo è una villa che contiene molte cose, cioè, già lo stiamo vedendo. C'è il centro civico di Zanardi, c'è un'edicola molto bella, anche lì c'è una sua storia particolare, perché è l'unica edicola, credo, in Italia che abbia i pannelli solari. Sono due edicolanti, due persone molto, molto carine, disponibili, infatti sono loro che in qualche modo gestiscono un comitato a difesa, diciamo, di questa villa. Un'altra cosa che è molto animata è questa gelateria, che è praticamente la sera d'estate, come si usa, il classico chioschetto, punto di ritrovo. Con questa ristrutturazione di questo parco hanno aggiunto delle panchine. Una volta, mentre tutto il resto era tutta campagna, invece questa specie di lingua di marciapiede inutilmente largo, adesso in zona pedonale, qui prima c'era un passaggio di macchina, per cui c'è stata fatta proprio una troncatura del traffico. Poi giù di là, andando avanti su via San Donato, c'è tutto un piccolo, ecco lì secondo me è un micro quartiere dove c'è via della campagna e sono delle piccole viuzze che si snodano in un interno rispetto a via San Donato. Proprio da via San Donato giri a destra su via della campagna e poi lì c'è un piccolo quartiere che è veramente, sembra il paesaggio degli gnomi, perché sono comunque sempre dei palazzi di 2, 3, 4 piani, però con tutte queste stradine, lontano dal traffico, molto tranquillo. La cosa che, continuando a parlare così un po' del quartiere, mi dà un gran senso di protezione. Appunto, essendo un quartiere periferico, non ha quel passaggio continuo di macchine. Certo, se ci avviciniamo alla via principale di San Donato, lì sappiamo, come abbiamo visto poco fa, c'è un gran traffico, anche perché è la linea proprio che porta alla tangenziale, quindi è molto bazzicata. Venendo in qua, appunto, ci sono tutti questi piccoli micro quartieri nel quartiere, che dicevo che qua non mi dispiacerebbe viverci. È un buon compromesso fra il vivere in città e il vivere fuori città. Però senti che la tangenziale si avvicina, c'è questo rumore di fondo. Dietro il palazzo, appunto, in cui abitavo, c'era il binario del treno merci, che passava tutte le ore, pesantissimo, faceva tremare tutti i vetri, ma era veramente a due passi da... Ecco, questa è la conclusione, ti arriva questo muro, proprio netta la... Non la considero così tanto periferia, in realtà. La consideravo periferia nei primi anni, Col passare degli anni invece mi sono resa conto che in realtà io ora non la definirei propriamente periferia, lo definisco più un quartiere subito dopo la porta, no? Subito fuori porta, quindi non darei proprio questa connotazione di periferia. Forse per me periferia è più qualcosa di più lontano, un po' come ad esempio il Pilastro, che è al di là della tangenziale o comunque... Mi viene da cominciare un po' dai bordi. Credo che per questa zona qui i bordi siano molto importanti. Con qualunque mezzo tu arrivi, innanzitutto devi, anche se sei in San Donato, devi attraversare un'arteria molto importante, che è la tangenziale, l'autostrada, che segna un po' il confine tra l'abitato e la campagna. Quindi si è costruito su un'area totalmente vergine, un grossissimo comparto della città. Diciamo che l'evoluzione poi del quartiere dagli anni 50 si è prolungata fino agli anni 80. Lo senti anche dalla qualità del suono, la differenza di dove sei, cioè che sei non solo in periferia, ma un tipo di periferia dove queste zone di attraversamento pedonale principalmente eliminano il suono delle macchine. Quindi da che sono al Pilastro ho sempre sentito questa impronta, questa calma che percepisci dai suoni, che sono appunto le foglie, il vento, diciamo elementi naturali, il parlare delle persone, i giochi dei bambini nel parco, gli schiamazzi, quello che vuoi, però c'è sempre la componente umana che spezza il silenzio, no? E rientriamo in studio, si può dire così, da Piazza Pontoni, dopo aver ascoltato questo giro, diciamo, di interviste paripatetiche fatte da Fedra Boscaro nel quartiere San Donato, e siamo qui con i nostri ospiti. Devo dire che io sono Francesca Clementoni di Radio Città Fujiko, sono con Alfredo Pasquali, sempre della radio. Siamo molto onorati di aprire questo ciclo di incontri che vanno appunto a spasso per i quartieri, e per capire anche come l'arte partecipata possa entrare sempre di più nella vita dei cittadini. Allora, intanto io presento gli ospiti che sono con noi, ovvero Diego Segatto, Roberto Rettura, Alessandro Cafiso e Emi Reliana Ferdous, spero di averlo detto quasi bene. Poi con noi c'è Fedra Boscaro, che ha curato questo ciclo di trasmissioni, ma che in questo caso si inserirà insieme agli ospiti in rappresentanza di Elisa Fontana e di Deborah Pradarelli della Pesatura dei Punti, che non hanno potuto essere qui con noi. E passo subito la parola ad Alfredo per cominciare questo giro di chiacchiere, di brainstorming. Sì, già questa prima serie di interviste di Fedra ci portava un dato interessante, quello che un tempo si chiamava l'inchiesta. L'inchiesta sul territorio, parole un po' antiche, però viene rivissuta in queste interviste peripatetiche. Perché da questo spicchio di città che si allarga da San Donato verso la periferia, verso San Donato, verso il Pilastro, evidentemente si va a toccare un nervo importantissimo di una convivenza in città, cioè il rapporto tra città e le sue periferie. Sappiamo che molto spesso leggiamo questo rapporto sulle grandi città, magari descritto unicamente quando sono dei disordini, per esempio, ma in realtà la convivenza è determinante laddove vive la gente, e credo che questo taglio appunto sull'artistico sia importante, anche perché ci sono quelle antenne magari più attente a quella cosa impalpabile ma estremamente concreta che è la relazione tra le persone e le possibilità di occupare gli spazi della città. Quindi direi a cominciare subito col chiedere ai nostri ospiti, Francesca, come hanno portato avanti le loro passeggiate di interviste. Grazie, buongiorno. E come abbiamo portato avanti, cioè, la nostra visione dell'esperienza con Fedra? Beh, per quanto mi riguarda, l'operazione di Fedra è stata interessante perché credo che, come molti altri neofiti bolognesi, almeno per quella che è stata la mia esperienza qua a Bologna, in cui vivo da 5 anni, ho usato esattamente la bicicletta, la passeggiata, per misurare la città e conoscerla. Poi ognuno ha i suoi punti di riferimento, va per gelaterie, va per bar, eccetera, eccetera. Però trovo interessante questa modalità di usare un'esperienza che è fisica e farne qualcosa per renderla condivisibile. E era la, credo, la terza guida che facevo nel, nel mio quartiere, per altre occasioni, altre ragioni. E nonostante ciò, è un quartiere che amo, una zona che mi piace molto, e quindi l'ho, l'ho visitata, diciamo, sotto tanti aspetti. Mi è capitato comunque di fare delle strade che non conoscevo, quasi spontaneamente, e quindi di misurare, devo dire, con il racconto, che non era preparato, ci siamo proprio improvvisati lì per lì, e quindi questo racconto seguiva i nostri passi man mano che assieme scoprivamo delle, delle nuove zone, delle, anche de, delle proposte formali strane da, da descrivere, che indicano anche un'altra Bologna, insomma, tutte le persone che sono venute a trovarmi, che sono state con me lì e che non raramente hanno visitato il pilastro che si porta dietro, oltre una distanza fisica e delle, dei, dei bordi appunto molto netti che creano una distanza, anche una nomea poco simpatica, ecco, diciamo così. Sì, infatti per noi bolognesi storici il pilastro è sinonimo di un quartiere nato dalla migrazione negli anni 60, rimasto sempre a parte, per anni fu un problema anche di, oggi si direbbe, di legalità in quelle situazioni, e di grandi lotte anche per la casa. Ma ecco, la domanda a cui partivo io, prima di entrarci poi in questa vostra esperienza di arte partecipata, quell'accusa che si fanno alle periferie di essere sole, atomizzate, quanto l'hai riscontrato nella tua esperienza? Oppure quanto c'è una vitalità proprio di persone che supera questa, questa distanza, questa barriera architettonico-urbanistica? È più semplice, credo, in questo senso descrivere qual è l'esperienza personale, perché chiaramente viene spontaneo dire che tutte le periferie in qualche modo sono uguali, c'è un fattore di bolognesità comune in tutto, inevitabile. Però per quello che è la mia percezione, questo si misura sui miei condomini, sulla Scala. Vivo al Virgolone, che è un'astronave con 1500 persone. Mi dà una bella sensazione pensare di avere tante vite attorno, però obiettivamente non ho una relazione con tutti, ho una relazione con diciamo una ventina di persone che vedo ogni giorno scendere dalle scale, l'ascensore, eccetera, ci scambio due parole. E poi un'altra è la percezione che ho visiva, e che è quella di vivere in un quartiere multietnico, perché vedo dei ragazzi indiani giocare a cricket piuttosto che una densità che ne so di bulgari nella parte del pilastro vecchio, piuttosto che rumeni appunto o pakistani alla fattoria. Chiaramente come dire, non si è difficile vivere tutte queste esperienze, ognuno può dare la propria percezione, e credo che ad esempio gli operatori sociali e culturali che lavorano nel territorio abbiano un'altra fotografia ancora da dare rispetto a queste altre realtà. Per quella che è la mia idea di quartiere, io ci sto bene, ma anche perché ognuno porta i propri vissuti, quindi ho bisogno di spazi aperti, di orizzonte, in centro non ci potrei stare. E mi sento accolto lì, non percepisco il pericolo. Sento una vitalità appunto che è data anche dalla sonorità, non sentire il suono delle macchine è molto importante, sentire le voci delle persone fa molto, insomma. E sempre di senso di protezione aveva parlato anche nelle interviste Alessandro Cafiso. Passiamo dal pilastro a San Donnino, anche per te direi più o meno la stessa domanda: qual è stato appunto il rapporto con Fedra in queste passeggiate, e quindi quali sono state le suggestioni che queste passeggiate hanno sviluppato? Ma diciamo che la formula che Fedra ha adottato per questa tipologia di intervista, battezzata appunto peripatetica, aveva una caratteristica interessante che anche Diego ha rimarcato, cioè quella là dello scoprire e osservare effettivamente delle parti anche del quartiere che non, normalmente uno che ci vive non guarda, o perché non sono di passaggio, o perché sono delle zone nascoste comunque rispetto alla vita quotidiana. Io ho vissuto al Pilastro ormai 4 anni fa, quando Fedra mi ha chiesto di fare questo intervento, comunque di fare questa intervista, nonostante adesso abiti in centro da 4 anni, ho sentito proprio un richiamo affettivo rispetto al tipo di quartiere da scegliere, e appunto ho scelto San Donato. La frazione di San Donnino mi fa anche un po' ridere dividere un quartiere che di per sé non è neanche così grande, però effettivamente per localizzare meglio è importante anche quello. San Donnino è un quartiere anche quello di passaggio, è un insieme di, per quello che conosco io, caseggiati, ex caseggiati popolari, un po' simile anche al Virgolone, se vogliamo, perché sono queste case a ferro di cavallo che hanno una struttura architettonica anche particolare, perché ne parlavo proprio con Fedra, nello specifico nella casa dove abitavo io era un palazzo a ferro di cavallo con al centro un parco, appunto il parco di San Donnino o Giardini del Casalone. E tu avevi l'impressione di non vivere in un centro abitato, perché ti affacciavi e vedevi i palazzi, vedevi il parco, e questa sensazione in qualche modo era piacevole, anche se sentivi la presenza dell'uomo, perché era innegabile, sono una quantità enorme di appartamenti uno accanto all'altro. E questa cosa in realtà mi ha stupito, perché per un lungo periodo ho creduto di non vivere in una città, perché non avevo una vicinanza così stretta col cemento, non una vicinanza, diciamo una visualità così stretta col cemento. E di conseguenza ho stretto un legame molto forte con questo quartiere, e quello che mi interessava anche nella proposta che Fedra ha fatto era il legame che ci può essere col territorio e con le forme di arte partecipativa, quindi la possibilità di sfruttare anche dei luoghi come contesto anche inusuale di attività performative o attività artistiche in generale, e anche sfruttando le loro caratteristiche meno belle, per dire. Ora non so se Fedra l'avrà montato all'interno del montaggio, scusate la ripetizione, ma c'è un momento in cui arriviamo di fronte a un muro che è il muro della tangenziale. E sembra una struttura inquietantissima, dove tu senti questo passaggio di macchine continuo, e al di là di questo muro c'è un piccolo giardinetto con un po' di erba incolta, un po' secca, un po' triste, con una panchina solita che troviamo nei posti, e ci sembrava un posto interessante per la sua struttura, per le sue caratteristiche così assurde. Non è un posto che ti dà una tranquillità, anche se apparentemente è così, è un parco, quindi uno si aspetta di rilassarsi sulla panchina al suono delle macchine che sfrecciano dietro di te. Quindi la tranquillità e l'inquietudine che si mescolano, era un terreno strano, urbano alla fine. Ecco, stiamo avvicinandoci alla città, prima al Pilastro, poi San Donnino, che non a caso erano, i Pilastri in modo evidente, ma anche San Donnino, due borghi separati dalla città, quindi che ha mantenuto una loro particolarità, una specificità rispetto invece poi all'intero contesto cittadino. Ma prima parlavi dei suoni, la tangenziale, quindi veniamo a Roberto Rettura, che credo che invece andare in giro per la città facendo delle istantanee con la macchina fotografica, hai fotografato la città con i suoni, no? Rispetto a quello che sentivi. Beh sì, io mi occupo di suoni di mestiere, quindi insomma l'attenzione sul suono per me è molto importante. Nella passeggiata che abbiamo fatto con Fedra abbiamo evidenziato un po' come la zona in cui abito io, praticamente sono alle spalle della RAI, è una zona di tripartizione, nel senso che andando un po' più in giù ci si incontra con il quartiere fieristico, rimanendo nello specifico nella via in cui abito io, che si chiama Via Piana, sembra di stare in campagna perché è una via completamente fatta da casette molto basse, a parte il palazzo in cui abito io e quello dalla parte opposta, che sono due palazzoni enormi. E invece salendo un po' più su, nell'incrocio tra via Michelino e via Ferravilla, si arriva proprio nell'arteria del quartiere, che appunto è via San Donato. E sono tre situazioni non tanto urbanisticamente, ma proprio sonoramente molto diverse, perché appunto la via in cui abito io è... I miei vicini di casa, i miei dirimpettaresi permettono di coltivare gli alberelli, i fiorellini, e hanno proprio una modalità, una dinamica di vita, io li vedo perché mi ci affaccio ovviamente, completamente estranea a qualsiasi cosa che possa essere una città delle dimensioni di Bologna. E poi salendo in su si vive invece una zona molto trafficata. Erano le 10 del mattino quando abbiamo fatto l'intervista con Fedra. Le spiegavo appunto che se fossimo passati di qui anche solo mezz'ora prima, c'era un traffico congestionato che c'è tutte le mattine per quella strada, e che è tipico di quelle strade importanti che comunicano verso il centro o verso fuori, a seconda di dove si deve andare. E poi c'è il quartiere fieristico, che in realtà è un luogo, se vogliamo, non abitato. Non mi è venuto in mente questa cosa nell'intervista, mi sta venendo in mente adesso mentre ne stiamo chiacchierando, proprio in merito a un discorso artistico di arte pubblica. Spiegavo a Fedra che io comunque mi occupo prevalentemente di teatro, oppure di musica, uno studio di registrazione, faccio il sound design per una compagnia di teatro, per cui vivo l'arte pubblica più che altro da spettatore, non sono stato in grado in qualche modo di dettare delle mie coordinate, diciamo, di lavoro, di prospettive in merito a questo. Però ho avuto la fortuna di collaborare con alcune persone che qualche anno fa, nel 2008 credo, hanno realizzato un reading multimediale all'interno del quartiere fieristico. Era una location che era stata scelta proprio perché era il testo di questo reading era Le città invisibili di Italo Calvino, che è un testo bellissimo, che sottolinea in qualche modo come nelle città si possa trovare una sorta di estemporaneità del vissuto, e quindi la fiera in sé per sé ha degli abitanti che sono estemporanei per definizione, diciamo. E quindi in realtà io ho avuto questa possibilità all'interno del mio stesso quartiere, a due passi da casa, proprio di poter vivere questa esperienza di arte pubblica, che mi ha colpito per molte cose, devo dire. Non sapevo distinguere gli abitanti del mio quartiere da chi era venuto, ovviamente. Tra l'altro il reading era una lettura fatta da Lella Costa, quindi c'era un richiamo anche sull'evento, non solo a livello proprio di città, ma anche, cioè, è un evento molto grosso, quell'evento dove insomma i bolognesi vengono indipendentemente se fa parte del loro quartiere o meno. Ah, lei c'era. spero ti sia piaciuto. E poi mi rendo conto come in realtà ci sia una porzione di abitanti che sono appunto quelli del quartiere, che non sono degli abitanti bolognesi, non sono degli abitanti del quartiere San Donato, ma che tutti gli anni periodicamente passano, e che io, altra cosa che non mi è venuta in mente perché poi tutto sommato non abbiamo avuto tantissimo tempo di chiacchierare e di approfondire, io in qualche modo ho avuto modo di frequentare, perché in un momento in cui a casa mia sarà liberata una camera, avevo deciso di gestire un bed and breakfast. Per cui frequentavo nella quasi totalità delle persone che venivano ospitati da questo bed and breakfast, gente di passaggio, gente di fiera, diciamo, che tu, non so se includere o meno se considerarli o meno nella loro estemporaneità degli abitanti del quartiere. Comunque ho avuto sicuramente modo di conoscerli, e forse anche di questo si potrebbe tenere in considerazione, tutto sommato. Quindi due quartieri tipicamente residenziali, uno molto antico, la Sandrino, ma anche il Pilastro, poi uno invece più legato al terziario, il comparto Fiere, Torre di Tang, insomma. Sono... Sì, sicuramente. Tra l'altro credo che, Diego diceva, non vedo molta differenza tra gli altri quartieri. Questa cosa qui a me mi mi fa sempre vedere San Donato come un quartiere a parte, e, appunto, sia perché c'è la fiera, sia perché poi nello specifico io ho parlato a Fedra ripetutamente nell'intervista per Ipatetica della mia via, perché ha questa caratteristica di essere molto, molto campagnola, molto, molto green, se vogliamo. A questo punto abbiamo un'esperienza specifica, Francesca. Sì, è un'esperienza specifica con Amy, perché ci avviciniamo all'esperienza specifica, perché il brainstorming vuole essere proprio a partire anche dal vissuto dei nostri ospiti e dall'esperienza che loro hanno avuto. Abbiamo Amy che attraverso l'associazione Oltre ha organizzato Pilastrada e comunque si è occupata della partecipazione alla Partot Parata, e quindi con Amy vogliamo cominciare a andare nello specifico dell'esperienza e come si è svolta questa esperienza di arte pubblica, perché così cominciamo anche a delineare un po' di confini e di diciamo di silhouette dell'arte pubblica. Io veramente partirei un po' diversamente, perché arte pubblica si sente come arte portare al pubblico, invece penserei diversamente dicendo tutte le persone hanno loro arte, hanno loro cultura, presentare questo verso il pubblico. Perciò questo, pensando questo proprio nell'associazione Oltre, noi in quartiere San Donato, tutto quartiere come sentivamo San Donato, San Donino, tutta questa parte noi abbiamo iniziato a lavorare più di 10 anni. All'inizio dell'associazione Oltre i grandissimi eventi che facevamo era proprio a quartiere San Donato, partito con diciamo il Fest Festival, era il primo grande evento che abbiamo fatto come associazione Oltre, con collaborazione con le altre associazioni ovviamente, perché facevamo parte del Zonarelli, dove c'è un centro culturale grandissimo e unico di città Bologna. E perciò quartiere San Donato come un punto di questa partecipazione di tutte le persone della città, proprio per scambi interculturali, cambi culturali, cambio arte e tante altre cose che fa Zonarelli. Ovviamente anche noi il primo punto di partenza era stato questo. Partendo da lì abbiamo mano a mano i anni passati abbiamo fatto Fest Festival a quartiere San Donato, e parte anche un grandissimo evento, diciamo adesso fa parte di cultura bolognese, e Partot Parata. In Partot Parata praticamente un lavoro presentato dopo aver lavorato tutto l'anno, in senso i laboratori partono dall'inizio dell'anno e Partot Parata praticamente è presentazione di tutto il laboratorio che ha coinvolto tutta la città. Pilastrada praticamente nasce solo 2 o 3 anni fa, perché Partot Parata ormai già maturo, il suo figlio che è piccolo nasce in questo quartiere. Questo è stato proprio i laboratori che facciamo in tutto il quartiere San Donato. Le persone che viene a fare Partot Parata non solo di Bologna, forse tutti gli ascoltatori ormai conoscono chi viene a fare Partot Parata, non solo Bologna, viene da tutta Italia, anche i gruppi internazionali. Perciò noi come livello internazionale che lavoriamo a fare questa cosa, ci sono delle persone tutto l'anno coinvolte in fare questi laboratori. Praticamente San Donato è stato uno dei quartieri dove ci sono dei punti di aggregazione dei giovani, i bambini, i ragazzi, studenti, adulti, tutti quanti. Abbiamo cercato di presentare questi laboratori all'inizio, che cosa facciamo, perché facciamo, e coinvolgere il loro bisogno, pensando al loro bisogno socioculturale, proprio non solo artistico, il loro pensiero di presentare in pratica, fare questa cosa insieme. Abbiamo iniziato a fare questo Pilastrada, perciò per noi come associazione Oltre cerchiamo di presentare proprio un individuo e loro creatività, loro bisogno di presentare loro arte a condividere con tutti i cittadini. Questo è il punto principale di questo Pilastrada, perciò collaboriamo con tutto il quartiere, con tutti i cittadini abitanti della zona e sì, portiamo avanti questo progetto. Ecco, faccio il mio primo intervento da rappresentanza in assenza, perché durante la puntata zero abbiamo avuto proprio un numero dedicato alla parata Partot e Franz ce ne ha parlato e poi l'abbiamo commentato insieme qui con le persone presenti. E una cosa che diceva Franz, un dispiacere nei confronti della Partot, cioè che non ci fossero che un 5% di partecipanti adolescenti, invece nella Pilastrada riesce ad essere soddisfatto, perché sapeva che avete avuto tantissimo successo da parte proprio di quella fascia di età. E vuoi raccontarcene un pochino? Purtroppo brevemente, perché il tempo comincia a stringere. Proprio in quel caso vorrei dire che un laboratorio che abbiamo iniziato per sartoria, dove veramente ha partecipato le mamme, perciò di non solo le mamme dei bambini e i mammi dei adulti, perciò gli anziani, che ha avvicinato moltissimo e curiosito veramente. Un coordinamento generale? Penso che autogestione è sempre faticoso, in senso che le persone devono essere motivate di fare questo tipo di lavoro. Di essere motivato, un lavoro di motivazione è una cosa molto importante. In quel caso, ogni punto dove andiamo, di veramente creare la fiducia con loro. Perciò le chiavi di creare un lavoro del genere, dove autonomia o finanziamento... coinvolge più attori, l'ente, l'associazione o il soggetto che organizza e le persone che vengono coinvolte. Quindi partecipano attivamente. Abbiamo esacerbato il concetto di arte pubblica, come ci diceva Amy, che è quello che ci interessa. Stiamo partecipando a un progetto di arte partecipata e quindi a questo punto non resta che un ultimo intervento di tutti i nostri ospiti, proprio a partire dalla propria esperienza, su che cosa, come si cala il concetto di arte pubblica e di arte partecipata sul... Mi dicono domandone da 100.000 euro. Certo. Ma guarda, cioè, credo che una cosa su cui si stanno svenando urbanisti, artisti, eccetera, sia il fatto che il fare città è cosa per molto lungo tempo delegata ai tecnici. Nel momento in cui la metropoli, la città si è complicata, è diventata sempre di più un meccanismo tecnico. E in quel momento uno dei ruoli che si è persi dell'artista era quindi, ritornando a questo, credo sia necessario che un artista intervenga, un artista, un operatore culturale, tutto ciò che fa, che agisce in quel territorio strano che è appunto quasi onirico, no? Tornando sui luoghi, Non saprei dirti quali luoghi, ad esempio al Pilastro, sono più papabili di un intervento, perché almeno per quella che è la mia esperienza, ogni volta che si impronta una piattaforma relazionale, cioè potenzialmente potrebbe essere ovunque, possono essere i parchi, possono essere le piazze, possono essere anche le case dove vivono le persone, gli appartamenti, o gli uni in relazione agli altri. Credo anzi più ci sia un respiro tra tutte queste dimensioni, più ricchezza si porta a un progetto. Credo che comunque rispetto a un progetto di arte partecipata oggi, credo sia sempre importante partire dalle priorità, cioè di che cosa c'è bisogno, che cosa si avverte in quel territorio di bollentando tutti gli strumenti che ha a disposizione, che sono tutte quelle cose strane che escono dagli strumenti, quel ventaglio standardizzato che abbiamo di affrontare i problemi. È molto generico, però ogni volta bisognerebbe incontrare, no, un contesto specifico su cui lavorare. Per quel che mi riguarda, io, come dicevo prima, mi occupo, lavoro in teatro piuttosto in studi di registrazione, sono tutti luoghi solo architettonica, ma proprio di luogo vissuto col quale porsi in relazione. Per cui per me quello lì può essere un luogo molto interessante per gli stessi cittadini del quartiere San Donato. E, un altro luogo che per me è importante è anche la villa, che non so neanche se ha un nome, perché nell'intervista poi mi ero accorto che non lo conoscevo e non mi sono neanche informato, sono stato un po' pigro. Però è praticamente la villa che sta tra il liceo Copernico e subito dopo la diramazione di San Donato, insomma, dove c'è la rotonda, dove c'è il centro civico Zanardi, la sede di quartiere, dove c'è poi la sede di quartiere, c'è il centro civico, che nella sua storia ha avuto di recente questa modifica urbanistica che è stata contestata agli stessi cittadini. Cioè è un luogo che ha già un suo vissuto di relazione tra quello che è il pubblico e quello che sono i cittadini, e io credo che questo sia in qualche modo un terreno già fertile sul quale poi poter innescare a livello artistico un'ulteriore relazione con i cittadini, appunto. Poi aggiungo un'altra cosa che per me è importante, lo evidenzia anche l'esperienza che descriveva Emi. Ritengo che per poter avere un buon rapporto tra artisti e cittadini ci debba comunque essere di mezzo una buona intermediazione, che in questo caso è di operatori culturali, così come un po' quando si costruiscono delle case, c'è l'architetto che costruisce una casa, ma ci deve essere anche un urbanista che in qualche modo inquadra un singolo edificio all'interno di un quartiere. Ecco, mi permetto di fare questo paragone un po' per... Io mi permetto un attimo di inserirmi in rappresentanza questa volta di Elisa Fontana e Deborah Praderelli della Pesatura dei Ponti, che durante la nostra esperienza peripatetica mi hanno fatto notare dei luoghi e delle possibili strategie. In particolar modo Elisa Fontana aveva immaginato, aveva visto su via Duse, in quel viale alberato, che è un viale sono gli alberi al centro della strada e in mezzo c'è un passaggio pedonale, e considerando il brulicare di vite, di direzioni del quartiere stesso, così composito, persone, negozi che aprono e che chiudono, mi ricordo dicesse, e comunque sì, tanta attività e tanto movimento, pensava che un buon intervento potesse essere insistere sulla convivialità, cioè sul far fare qualcosa alle persone. In particolare pensava a questa lunga tavolata tra queste due file di alberi, dove imbandire un banchetto a cui tutti i partecipanti potessero concorrere portando loro specialità, e sarebbe stato veramente un banchetto, e sarà forse, chi lo sa, un banchetto veramente interculturale che non mi vorrei perdere. Invece... Scusa? Partecipativo sicuramente. E invece Deborah, mi aiuterai, hai detto il liceo Copernico era? Sì, il liceo Copernico. Esatto, Deborah aveva visto nel ponte che collega la scuola alla palestra un ottimo luogo per una realizzazione artistica. Ora non si sa bene quale potessero essere stati i contenuti, ma aveva colto in quello spazio una possibile radicamento della sua visionarietà. E fra l'altro un altro posto era il negozio di bagni che c'è su via San Donato, che ha queste vetrine completamente trasparenti, e sono posti che sollecitavano la sua fantasia, e chissà, magari sollecitano anche quella di qualcun altro. Dunque, per quanto mi riguarda, ci sono alcuni focus rispetto all'idea dell'arte partecipativa, perché credo che l'arte in sé sia un concetto da centro città, nel senso che è qualcosa di cui possiamo fruire sostanzialmente nei musei, in quelle strutture che solitamente sono maggiormente concentrate al centro città. E la cosa interessante di questo progetto di arte partecipativa è proprio il fatto di riuscire invece a coinvolgere la periferia, che è meno considerata ovviamente sotto questo aspetto, perché è considerato un luogo deputato all'abitazione fondamentalmente, non un luogo Ovviamente non in assoluto, ci sono ovviamente delle piccole realtà anche abbastanza attive che si muovono soprattutto al Pilastro e a San Donato e ovviamente anche in tutte le altre parti della città. Ovviamente la cosa interessante sarebbe che ci fosse un interesse primario da parte delle istituzioni, anche se ormai sappiamo che sulle istituzioni si può fare poco affidamento da questo punto di vista, soprattutto sul sostegno economico di eventuali iniziative di questo tipo. E di conseguenza, di fronte a questa difficoltà, è evidente che bisogna riformulare una propria idea di arte. Come si diceva prima, l'arte deve essere qualcosa che non viene solo dall'artista, perché non è solo l'artista che ne fruisce, al contrario, sono gli altri che devono fruire dell'arte che l'artista produce. Quindi ci vuole sicuramente un dialogo da tutte e due le parti, dalla parte dell'artista e dalla parte del fruitore barra cittadino in questo caso, che affinché abbia un senso, affinché l'arte abbia questo riconoscimento. E questo può essere fatto ovviamente con un'osservazione attenta. In sociologia c'è il termine di osservazione partecipante, che implica quando il sociologo, lo studioso si immerge nella situazione che deve analizzare, in una situazione che culturale, socioculturale che non gli appartiene, per capirla realmente. Questo ovviamente è un progetto un po' utopistico, ma sarebbe ovviamente un buon punto di partenza per sviluppare un'analisi dell'arte legata poi al territorio. E mi fermo qui. Io colgo la palla al balzo per svelarvi una cosa, visto che ci siete già dentro, che in realtà è proprio su questo che stiamo ragionando. Forse non sono, cioè, in realtà la parola partecipazione sta uscendo un po' da tutti gli ambiti in questi ultimi periodi, e probabilmente proprio perché è urgente. E guarda caso l'arte partecipativa ce la stiamo inventando proprio noi adesso. E questo è, diciamo, e per questo esperimento, fra l'altro, purtroppo il tempo qui in trasmissione in diretta è poco, però colgo l'occasione per invitarvi tutti a dei prossimi appuntamenti che organizzeremo in Villa delle Rose, nella possibilità e nella speranza di poter creare nuovi contenuti e continuare questa ricerca, perché purtroppo proprio mentre si stavano cominciando a muovere le idee, ormai il tempo stringe e dobbiamo passare la linea. Quindi io colgo l'occasione per salutarvi. E se allora, innanzitutto effettivamente Emi, anche se con la parata partot, basta che non parli della parata partot perché ne abbiamo parlato già tantissimo anche nell'altra puntata, però se tu avessi voglia di darci un tuo suggerimento su quella che potrebbe essere per te una declinazione dell'arte che ti piacerebbe sperimentare, fruire per la tua esperienza dei quartieri fuori porta, del tuo territorio dove vivi, se ti va di darci un suggerimento. Io sono, ovviamente col mio nome capisce che sono straniera, vivo qui in Italia da tantissimi anni. Comunque io penso che arte e cultura, questa cosa, possono vivere dove ci sono il punto di riferimento, perciò ha bisogno veramente un punto di riferimento forte dove tutte le persone possono realizzare questo tipo di attività. Ecco, io prima sentivo, chiudiamo magari il prosto. Domanda vorrei fare, prima si parlava del Pilastro, la fattoria, poi si citava Zonarelli, parlando anche del San Donino viene in mente il Casalone, luoghi storici. Ecco, per questa arte partecipata e partecipativa, questi luoghi rispetto al giardinetto, rispetto al parco, sono ancora considerarsi dei luoghi privilegiati di intervento o delle retrovie logistiche per cui poi diramare l'iniziativa? Lo so che vorrebbero, sicuramente tutti hanno da rispondere, semplicemente vorrei rispondere questo. Gli enti che veramente vorrebbero creare i punti di riferimento come punto di fiducia potrebbero utilizzare tutti questi punti che ha stato riferito proprio adesso. Perciò finché non c'è questo tipo di riferimento dal proprio lente, forse non riusciamo a aggregare questi posti come punto di arte. Quindi fondamentale la presenza di istituzione, anch'essa partecipativa in qualche modo. Esattamente. Ma pare dalla voce dell'assessor Lepore, che è stato con noi, che questa disponibilità dovrebbe cominciare ad essere. Adesso aspettiamo. Sono rose fioriranno, vero? Ma anche di nei sicuro. Giardinetti vicini alla tangenziale. Va bene, colgo l'occasione per ringraziare tutti, innanzitutto Radio Fujiko con Francesca e Alfredo che ci hanno fatto questa cortesia e saranno con noi anche mercoledì, fra l'altro. Poi ringrazio Diego, di nuovo Emi, Roberto e Alessandro, e vi aspetto tutti a Villa delle Rose, grazie. Io sono puro bolognese, capito? Difatti, allora poi al tempo di guerra siamo venuti fuori, capito? Sono da solo, capito? Perché i poveri miei genitori, cioè, sono venuto ad abitare qua in San Donà, in via Duse, sa? Ho una cameretta anch'io in via Duse. Una cameretta, una signora, pago e basta, chiuso. Ma come si trova qua? Ma come mi trovo adesso? Male dappertutto. Mi trovo soltanto con tutte le sporcizie che c'è. Allora la terra non respira più, ha cambiato tutto, perché con più gente c'è, con più cambia anche temperature. Il bene che c'era di prima adesso non c'è più, c'è soltanto sport. E quanto ce n'è dei bolognesi? Al massimo, ci sarà 5.000, al massimo, adesso 20 milioni, capito, sono tutti stranieri. No, prima era più brutto. No? Prima era più brutto, adesso è più bello. Molto, ma qualcosa è cambiato. In peggio. No, sono diverse cose. Stai calmo, non è vero. È che un po' meglio. Per la mala vita, sì. Di ordine, via. Così. Beh, c'erano le belle ragazze qua. Ma le signore bolognesi non vengono a giocare a carte al bar? No, mica noi. Loro lavorano in casa. Fanno la sfoglia. Dove vanno a giocare? A cosa? A tombola. A tombola vanno a giocare. Tombola. È vero, vedi. Ognuno ha il suo gioco? Ognuno il suo gioco. Guai se si invertono le cose. C'è un buraco di nuovo. Adesso, i cambiamenti che c'è nel gioco delle carte, è difficile le donne che le vedi dentro nei bar, le vedi nei circoli, ma nei bar non si vedono. Elia Media, molto nostivazzo, molto media channel. Dal 15 di ottobre, dalle 16 alle 20, in piazza Puntoni. www.aeliamedia.org. È una teleferica. Vorrei che fosse il deserto. È un surf di specchio, a nostro uso e consumo, e riciclaggio, antiecologico. Perché tende alla distruzione dell'uomo in quanto sacrificio alla purezza, al Dio. Vorrei che fosse acqua corrente. Ma che cos'è? Che cos'è? È un... Ma sono occhiali da sole? Sì, sono occhiali da sole. E beh, che vuol dire? Agu, non mi domanda tutto a me.